io la prima domanda te la faccio non per fare una provocazione rossonera, ma te la faccio alla maniera del Paron, che in questi quasi qua diceva: ma chi ha sbagliato? Chi è che ha sbagliato per primo? No, no, io credo che siamo in un paese fantastico. C'è un ragazzo che non ha ancora capito la fortuna che madre natura gli ha dato, certo, e che pretende di fare cose che non vanno fatte, ma non solo da uno della sua età, ma neanche da un altro di un'altra età. Mm. Poi quando si arriva al fermi tutti, vediamo di fargliela capire, dopo averci già provato tante volte, ecco che allora andiamo a ma povero ragazzo. E purtroppo è la società di oggi, cioè ragazzi di 14 anni che stuprano una ragazzina di 12, adesso questo è tutto un altro discorso, certo, grave, eccetera. E per darmi l'idea, ma non hanno fatto niente, ma cosa vuoi che sia? No, io credo che nel caso, quello è un caso a pare, nel caso Balotelli, bisogna che il ragazzo capisca che fare il professionista di calcio comporta grande cose, ma anche sacrifici, responsabilità, correttezza, eccetera. Se lo capisce la storia del calcio, altrimenti fra qualche anno si perde. Certo. E quindi anche nel suo interesse, secondo me, che l'Inter abbia scelto una linea così dura, o Mourinho, ma comunque con l'apporto della società. Col pieno avallo della società, e da ieri abbiamo capito anche appoggio della squadra, perché mi pare che la posizione di Eto'o sia stata quella poi che ha dato in un certo senso una svolta, no, alla vicenda. Ma difatti quello che solitamente i giocatori non sono mai con l'allenatore, stanno più col compagno, certo, comunque perlomeno la maggioranza. Se tutta la squadra o tace o sta dalla parte della società, dell'allenatore, e non lo fanno per interesse, non ne hanno bisogno, è perché hanno visto quello che è successo, che ancora, e l'Inter è stata bravissima, non sappiamo bene, sì, non lo sappiamo, ma deve essere qualcosa. Mourinho poi non è un cretino, possiamo dargli tutti le colpe, tutti i difetti che ci sono, però non è un cretino, è una persona intelligente, magari presuntuosa, eccetera. Davanti agli obiettivi che ha, per una stupidaggine avrebbe fatto, messo in castigo il ragazzo in questo modo, avrebbe fatto finta di niente, poi a fine anno avrebbe detto: adesso però me lo levate dai piedi.